tipo addominali, quando parliamo di addominali. Bene, io direi che possiamo iniziare. Potremmo... E vi saluto, saluto il nostro caro pubblico che ci segue e saluto soprattutto i nostri ospiti. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Mario Caroli, che è l'autore appunto di questo libro che viene presentato con il vento di Barbiana, La scuola rossa di Bori. E abbiamo con noi anche Quinto Antonelli, ricercatore e storico presso la Fondazione Museo Storico in Trento. Già abbiamo incontrato in alcune occasioni sempre qui al Trevio presso la Biblioteca Provinciale quando eravamo nella storica sede di Domendola, perché Quinto Antonelli si occupa moltissimo di memorialistica, è stato diciamo anche un pioniere in Alto Adige, direi non solo, in Alto Adige e non solo, anche a livello nazionale, di quella che è la memorialistica in particolare. Sono pregiati e molto apprezzati anche i suoi studi sulla Prima Guerra Mondiale, che abbiamo potuto vedere, conoscere, anche perché sono pubblicati, ci sono parecchi studi appunto che sono utilizzati anche dagli storici. Questa sera invece noi ci occupiamo di una storia molto più recente che ci ricordiamo da vicino, ed è appunto quella dedicata alla scuola nel periodo del 68, di cui ci parlerà appunto il nostro autore. Ricordo che la biblioteca con oggi riprende le sue iniziative, le proprie attività diciamo serali di promozione. Giovedì 16 gennaio riprenderemo anche con i corsi di formazione gratuita per l'utilizzo del libro web o questa piattaforma, quindi chi ha interesse può iscriversi, sono gratuiti e hanno luogo alle 15:30 nella nostra sede al piano terra. E poi venerdì avremo un altro appuntamento con Mendicino, che ci presenterà i suoi due libri, uno dedicato a Luca Revelli e l'altro a Mario Rigoni Stern. Quindi con questo concludo, ma con una promessa che anche il mese di gennaio sarà molto impegnativo per chi ci vorrà seguire, ricco di iniziative e soprattutto di incontri serali. Ringrazio ancora i nostri autori, a cui cedo subito la parola e che ringrazio sentitamente di essere venuti qui da noi. Grazie. Grazie. Grazie. Allora inizio io. Sì. Allora, buonasera. Sì, siamo d'accordo con Mario che inizio io. E, di solito... se fossimo appunto a Trento o nel Trentino, Mario Caroli non avrebbe bisogno di una presentazione perché è un personaggio molto, molto noto, e, però qui devo dire due parole sull'autore. Insomma. Ecco, Mario Caroli si è sempre occupato di scuola, questo dobbiamo dirlo subito. È stato un insegnante, ha insegnato a lungo nella scuola media, ha svolto attività di aggiornamento, ha collaborato stabilmente per decenni con il quotidiano Alto Adige scrivendo di scuola, un giornalismo il suo militante, sempre... come dire, descrivendo la scuola nel suo farsi, nel suo organizzarsi, nel suo vivere. Ha ideato e poi diretto fino al 2013 Didascalie, che era il mensile scolastico della provincia di Trento, che ora non c'è più, vero? Neanche nella sua forma online non esiste più. Didascalia è stato una bella cosa, insomma, all'inizio. Per qualche anno ho anch'io collaborato a questa rivista, quindi eravamo insomma colleghi. Ed è stato un tentativo, era un tentativo insomma di dare voce alla, così, alle sperimentazioni scolastiche, alla scuola che stava diventando provinciale, quindi al processo di provincializzazione, alle istanze di autonomia. Insomma, Poi io ho scelto altre strade, ma Mario ha continuato appunto con questa importante rivista. Poi, mentre stava facendo queste cose, ho pubblicato molti saggi sull'organizzazione della scuola, sulla programmazione, sulla valutazione, sulla continuità scolastica tra materna, elementari, medie, e insieme anche libri di narrativa per ragazzi. Ecco, ricordo almeno un titolo che ha qualche attinenza con il volume che presentiamo, Vita di classe, che è del 1887. 900. Sì, 1900. Certo. 1900. A lui piace la storia. Sì, ormai la pratica storica mi ricaccia indietro proprio. 1987. Ed è autore anche di un romanzo, in parte credo autobiografico, Prenderò il treno, che è del 1990, e un romanzo che avevo appunto letto nel 90, quindi ormai 30 anni fa, e a rileggerlo ora, dopo con l'evento di Barbiana, insomma diventa una sorta di primo capitolo, ecco, di un antecedente che forse andrebbe, che adesso si legge con un occhio diverso, perché ci racconta il prima, che cosa, cioè la formazione sostanzialmente del protagonista, che qui ha un altro nome o forse non ha nome, e che qui si chiama Lucio, ma che insomma sono tutti trasfigurazioni di Mario. Ecco, Prenderò il treno finisce con una scena che vi leggo, che è veramente interessante, perché ci mette direttamente dentro questo libro. Il protagonista è a Bari, ha avuto varie esperienze, ha fatto dei suoi viaggi, ha conosciuto delle persone, è stato in un convento, esce da questo monastero dove ha trovato un suo amico, correndo verso la stazione a prendere il primo treno per Bologna. La distanza s'annulla nell'intensità delle immagini lasciate nella biblioteca del convento. Bologna è ancora un bivio ormai impercettibile. Un altoparlante annuncia la partenza contemporanea di due treni. Sul primo binario è in partenza il direttissimo per Bari-Lecce, da dove proviene, quindi il ritorno a casa. Sul primo binario Piazzale Ovest è in partenza il direttissimo per Bolzano, Brennero. Vado, prenderò il treno. Finisce così questo. Il treno che prende, sappiamo adesso qual è quello per Bolzano, Brennero. E così arriviamo insomma al volume con il vento di Barbiana. Ecco, nella mia introduzione scrivo che questo libro è per molti versi indefinibile, ed è vero, non sta dentro un'etichetta, non è un romanzo, non è un saggio, è però qualcosa di dell'uno e dell'altro, è anche un romanzo, è anche un saggio. Vi troviamo una prima parte intitolata La memoria, che è una parte apertamente narrativa. Si apre con una cena, siamo alle soglie del 2000, la cena è una rimpatriata di insegnanti ed ex alunni di Mori, che è questo centro ormai grosso, è una, credo che sia la quarta cittadina del Trentino ormai, insomma, dopo Trento Rovereto, Pergine, credo che ci sia Mori. e si trova sulla strada per Riva del Garda, tra Rovereto e Riva. E una rimpatriata, si diceva appunto, di insegnanti ed ex alunni di Mori, proprio quegli alunni che avevano frequentato nei primi anni 70 la scuola rossa del sottotitolo. Il libro infatti si intitola così, Con il vento di Barbiana, la scuola rossa di Mori. E il ritrovarsi quasi 30 anni dopo ha il valore di un bilancio. Nasce il confronto tra il passato e il presente, come si era e come si è diventati, è un confronto tra le aspettative e le realizzazioni. E già qui però, nelle prime pagine, siamo alle prime pagine del volume, appare Don Milani e appare la lettera di una professoressa. Ecco, Don Milani è una presenza costante nel libro. L'esperienza di Barbiana, la lettera dei ragazzi, costituisce un riferimento, una sorta di bussola, di stella polare, un riferimento anche esistenziale. C'è uno dei ragazzi, si potrebbe neanche più chiamarli ragazzi, 30 anni dopo sono 62, dei quarantenni. 62 anni, 60. Adesso sì, adesso, ma allora sì, sì. Nel 2000, diciamo, all'epoca di questa rimpatriata, c'è soprattutto uno di questi ex alunni, quello forse meno attento, quello meno pronto, quello che rispondeva insomma meno alle aspettative anche degli insegnanti, è proprio quello che cita appunto Don Milani. Insomma, fra tutti, a un certo punto prende la parola, perché era l'ultimo della classe sostanzialmente, questo. Però nella vita insomma si è fatto valere e prendendo la parola dice: oggi vorrei dire una cosa che avevo già pensato il giorno che Michela mi ha telefonato per avvisarmi di questa cena. Io a casa ho pochi libri, anche se ne leggo, ma li prendo in prestito dalla biblioteca. Un libro però lo conservo dalle medie, Lettera a una professoressa dei ragazzi di Barbiana. Ve lo ricordate, no? Lucio ce l'aveva fatto conoscere e consigliato lui, il professore di italiano. L'ho ripreso in mano ieri, me lo sono portato in borsa e l'ho sfogliato in aereo oggi, nel volo di rientro dalla Sardegna. Ho pensato che alla fine io ho fregato i professori, perché loro mi dicevano sempre che ero il Gianni di Barbiana, che avrei certamente abbandonato la scuola prima di finire. Avevano ragione a dirmi questo, ma ho letto ieri che Gianni non sapeva mettere l'H al verbo, il verbo avere. Però, aspetta che leggo proprio come è scritto nel libro, insomma, corre veloce, legge, e appunto cita questa frase. Ma dal mondo dei grandi sapeva tante cose, sapeva del lavoro, delle famiglie, della vita del paese. Qualche sera andava col babbo alla sezione comunista o alle sedute del consiglio comunale, eccetera eccetera. Insomma, ecco, Don Milani appare già nelle prime pagine e poi accompagna via via tutto il libro. L'incontro con i ragazzi, insomma questa rimpatriata, questa cena, fa scattare anche nella memoria del protagonista, che si chiama Lucio, che appunto l'abbiamo già detto, insomma un riconoscibile alter ego di Mario Caroli. Ecco, fa scattare anche la memoria insomma di Lucio, che ricostruisse il suo arrivo nel Trentino. Esattamente come Mario, anche Lucio viene dal sud e studia a Firenze, i primi giorni di scuola a Mori, lo scontro con il potere scolastico, ben rappresentato qui dal preside e dal decano, un decano straordinariamente ben descritto, sanguigno, vera incarnazione del potere non solo clericale, ma anche politico, insomma. è un erede degnissimo di quel potere clericale di fine Ottocento, insomma. E poi via via appunto le prime esperienze, le prime sperimentazioni della scuola. E poi c'è una seconda parte che prende l'avvio con una grottesca ispezione scolastica. Ecco, in questa seconda parte invece a prevalere sono i documenti di quel periodo, la scrittura in presa diretta. Ecco, se nella prima c'è appunto la memoria e il filtro della memoria, nella seconda parte invece ci sono le carte, ci sono i diari di quel periodo, i verbali, le relazioni delle insegnanti, uno straordinario diario dell'animatrice di doposcuola, i volantini che vengono da fuori dentro la scuola, che si fanno a scuola e si distribuiscono fuori, e poi i giornalini scolastici, i testi teatrali e infine i temi dei ragazzi. Ecco, centrale in questa seconda parte è lo scandalo della scuola rossa, come viene chiamata appunto è una citazione questa, perché scuola rossa è chiamata così dai politici della Democrazia Cristiana. Ecco, questa è una scuola che divide il paese e l'opinione pubblica. E volevo leggervi a questo proposito una piccola parte, alcune righe insomma, di un lungo documento che appare su Scuola e Documenti del 73, sul numero 2, editrice Centro di Documentazione di Pistoia. Insomma, è un caso quello di Mori che diventa nazionale e che insomma che diventa uno dei esempi delle esperienze di base, in questo caso della scuola, che vengono poi fatte circolare anche attraverso strumenti di questo genere, insomma, che erano molto letti dalla sinistra extraparlamentare, diciamo così. Ecco, questo lungo documento si intitola Mori, lotte e repressione nella scuola dell'obbligo. Vi leggo solo una piccola parte. L'inizio dell'esperienza, 1971. Già da qualche anno la presenza nella scuola media di Mori di qualche insegnante democratico aveva turbato le sane tradizioni scolastiche del paese, mettendo in allarme i centri del potere locale. Non erano ammissibili iniziative che denunciassero lo strapotere dei notabili di C, il carattere di classe della scuola, la piaga delle bocciature e dei costi di una scuola gratuita. Voi capite che il linguaggio è dell'epoca proprio. È perciò inevitabile che all'apertura dell'anno scolastico 71-72 le polemiche si scatenino con violenza, dure e organizzate. Non si sopporta di avere in paese un preside di sinistra, un doposcuola che non sia una brutta copia del mattino, ma che favorisca nei ragazzi la loro autonomia di lavoro e la loro capacità di lettura e di intervento sulla realtà sociale. Alcuni professori, tra virgolette, fanatici estremisti. Ogni iniziativa è, aperte virgolette, un salto nel buio, un attentato al buon funzionamento della scuola. E adesso qua si riporta l'intervento di un ex presidente del comitato scuola famiglia. Allora non c'erano ancora gli organi collegiali, siamo nella scuola pre-organi collegiali. E quella presenza dei genitori è tutta informale, insomma. E questo ex presidente aveva scritto in un suo documento: nella scuola non c'è niente che vada bene, i ragazzi non fanno che discutere, discutono perfino argomenti al di fuori del programma, quindi fanno politica, mancano la disciplina e le pene corporali. E poi, incredibile, sono aboliti i compiti a casa e la valutazione negativa del ragazzo. Ecco, per dirvi il clima, il linguaggio, la polemica dell'epoca. Ecco, questo è il sintetico profilo del volume. Volevo darvi poi una serie di elementi, insomma, alcuni temi che troviamo e che caratterizzano questo volume di Mario Caroli e che vorrebbero però anche sollecitare il suo intervento. Ecco, il primo tema è quello che io chiamerei professore in trasferta. Lucio Mario, laureato in lettere a Firenze, arriva nella scuola media di Mori a sostituire un insegnante priva di laurea. Siamo nel gennaio del 70. 50 anni esatti. 50 anni esatti, sì, veramente, nel gennaio del 1970. Allora, sostituire un insegnante priva di laurea, non a caso. Nei primi anni 60 i laureati annui in Trentino sono 24 ogni 100.000 abitanti. La media nazionale registra 37 laureati ogni 100.000 abitanti. In termini assoluti, data la popolazione di 412.000 unità, si contano 98 laureati ogni anno nel Trentino. Molto al di sotto non solo della media nazionale ma anche dei laureati del sud, molto in agraria. Allora, un così ridotto numero di laureati all'alba della realizzazione della nuova scuola media, istruzione secondaria di primo grado che richiedeva da parte dei professori la laurea, costituisce un ostacolo difficilmente superabile in tempi brevi, tanto che vengono ammessi ad insegnare i soli diplomati purché iscritti all'università. A salvare la situazione trentina arrivano dalle tante regioni d'Italia, dapprima dall'Emilia-Romagna e dalla Toscana e poi dalle regioni più meridionali, dalla Puglia, come nel caso di Mario Caroli, e dalla Calabria, i laureati. Ecco, questo evento assume l'aspetto di una vera e propria immigrazione intellettuale. E come tutti gli immigrati, anche quelli intellettuali devono affrontare le difficoltà dell'accoglienza e dell'integrazione. Tanta è l'urgenza che spesso questi giovani insegnanti passano direttamente dalle aule universitarie a quelle scolastiche. È questo il primo dato che si rileva da una serie di interviste rilasciate recentemente nel corso di una inchiesta sulla nascita della CGL Scuola. Nasce nel 67 e quindi siamo proprio in quegli anni. Giuliana Querci, qualche piccolo esempio, Giuliana Quercini, toscana, si laurea nel marzo del 66 e pochi mesi dopo, il primo ottobre, sempre del 66, è già ad ALA come insegnante di tedesco. Nel 64 ad ALA era arrivata dall'Emilia anche Flavia Fabbri, insegnante di educazione artistica, e racconta: quando sono arrivata all'ambiente, l'ambiente era un po' chiuso e quindi si è aperta dopo un po' di anni perché venivamo da fuori e c'era un pochino di diffidenza anche nei nostri confronti, da parte dei genitori ma anche dei colleghi trentini, per la verità. Ricordo che il mio preside diceva spesso: andate fuori dalle ostie questi terroni, no? Io ero dell'Emilia Romagna, ma per lui era un terrore. Anche Luigi Brasini, insegnante di fisica emiliano, trova la medesima chiusura. Sai che si diceva che quelli al di sotto di Borghetto erano tutti meridionali? Ecco, i giovani insegnanti trentini ricordano i loro colleghi emigrati come politicamente più impegnati e tra i più attivi fondatori del nuovo sindacato, la sezione trentina della CGL Scuola, sorta appunto nel 67. La nuova scuola media. Nell'anno scolastico 69-70, quando Lucio Mario, insomma, inizia la sua carriera di insegnante, la scuola media obbligatoria, sorta con la riforma del 62, era ancora una scuola nuova. Era nata sull'impianto però della vecchia scuola voluta dal ministro fascista Bottai nel 1939, concepita come porta d'ingresso per accedere al liceo e altre scuole superiori, e qualcosa di quello spirito elitario, di quella funzione selezionatrice gli era rimasto appiccicato. Apertamente ostili alla nuova scuola media sono i più anziani professori di ruolo della scuola media di vecchio stampo, i professori di latino che si sentono declassati, i presidi che lamentano una catastrofica perdita di prestigio. E a questa categoria sembra appartenere anche il preside che accoglie il giovane neolaureato nella scuola di Muri. È un bel personaggio questo. In Trentino il portavoce più riconosciuta di questa fazione è Cirillo Covi, preside della scuola media Bresadola di Trento, che nel 65 scrive un pamphlet dal titolo parlante, in latino, De scola quae media inferior appellatur. Scrive di vivere la trasformazione con grande malessere e contrarietà. Si dice confuso e costernato. Tutto si è livellato, esclama. La riforma gli sembra la fine della scuola così come l'aveva concepita la civiltà occidentale. Anzi, è il colpo mortale dell'umanesimo classico. Anima della cultura e della civiltà cristiana. Non ci sono mezzi termini. Ciò che si aspetta non è che, dalla scuola media, barbarie e rovina. Ecco, la scuola umanistica, insomma, che culminava con il liceo, riceve con la riforma un grave colpo. È un terremoto che scuota le fondamenta del mirabile edificio, apre crepe profonde e lo semina alla radice. Eccetera, eccetera. Lascio perdere altre citazioni. Ecco, e molto diversi invece sono questi giovani professori che vengono dall'università, alle spalle hanno anche il 68 e si pongono assai diversamente di fronte alla nuova scuola. La considera non più come il primo segmento di un percorso per pochi ragazzi selezionati e privilegiati, ma il secondo tratto, e per parecchi ancora l'ultimo, vero, di una scuola obbligatoria, una scuola di tutti e per tutti. Ecco, si tratta per loro quindi di una scuola ancora in gran parte da inventare. Ecco, insisto su questo punto, da inventare, perché questo libro dà conto appunto di una scuola che viene inventata da questi giovani professori, giorno dopo giorno, sbagliando, esagerando, tornando indietro, rifacendo le cose, mettendoci entusiasmo, ma appunto una scuola creativa, da creare, non c'è, bisogna inventarla. Insomma, con un atteggiamento assai diverso da quei vecchi professori che, per i quali insomma, il futuro era dietro le spalle, insomma, bisognava rifarsi al passato. Ecco, questi cercano appunto di inventarsi una scuola del futuro. Affrontano un grosso problema, che è quello della selezione. Ecco, la selezione è al centro di... del dibattito, delle discussioni, dei documenti, delle lotte che si fanno in questa scuola di Muri. La scuola dell'obbligo è una scuola dell'obbligo, appunto. La scuola dell'obbligo di quegli anni è ancora una scuola ampiamente e ingiustamente selettiva. Ingiustamente perché non riconosceva i diversi livelli di partenza degli alunni, perché non riconosceva appunto le diseguaglianze sociali. Che fosse ingiusta e ingiustamente selettiva, quella scuola lo riconosceva perfino Bruno Kessler, nel 1968 uomo di punta della Democrazia Cristiana Trentina, presidente della giunta provinciale. Utilizzando una ricerca del provveditorato, in un discorso appunto del 1968, Kessler tratteggiava il profilo di una scuola trentina come quella italiana del resto, inadeguata e ingiusta. È difficile a questo proposito, queste sono le sue parole, sottrarsi alla logica delle cifre e dei dati di fatto per contestare l'affermazione che abbiamo più volte sentito, secondo la quale la scuola italiana di ogni ordine e grado è una scuola classista che agevola in modo particolare le classi sociali più elevate e i ceti urbani. e dopo snocciolava una serie di cifre. E sembrava veramente di leggere dietro questo discorso di Bruno Kessler la lettera dei ragazzi di Barbiana. E il discorso della selezione sta proprio anche al centro delle ricerche degli insegnanti di Mori e dei ragazzi, insomma, il loro impegno contro la selezione diventa uno degli obiettivi principali. A un certo punto ragazzi e insegnanti faranno esattamente quello che hanno fatto i ragazzi di Barbiana, cioè l'elenco dei bocciati, il percorso il percorso dei singoli ragazzi, però mettendo in luce le loro origini sociali, insomma è un giornalino intero, insomma, che viene dedicato, no? al discorso della selezione. Sì, Carte in tavola si intitola il giornalino. E poi si arriva al dopo scuola. La realizzazione, l'invenzione, ecco, più impegnativa è forse quella del dopo scuola, che non era, l'abbiamo sentito, non era semplicemente un luogo dove fare i compiti, non era la brutta coppia o quella, insomma, una coppia più cordiale della scuola del mattino, era un'altra scuola, forse anche una controscuola, insomma, in qualche modo. E l'animazione teatrale, la ricerca storica, appunto il giornalino, le ricerche, il cinema, a un certo punto arriverà, appunto, sì, il teatro. Ecco, di questo se ne parla ampiamente nel libro, perché il dopo scuola è proprio la scuola contestata, no? L'elemento più contestato, insieme all'eliminazione dei voti. E un intero capitolo, appunto, è intitolato Il mostro dopo scuola, non il nostro dopo scuola. E il ruolo dei genitori. Naturalmente una scuola tanto innovativa non può non creare tensioni e divisioni. Ecco, il contrasto maggiore, quello che ai nostri giorni appare forse con più evidenza, è quello che oppone insegnanti e genitori, certi genitori. Non tutti gli insegnanti e non tutti i genitori, ma è un problema antico quello del rapporto tra scuola e genitori, un problema antico e piuttosto tipico del Novecento. Il ruolo dei genitori nell'educazione dei figli, il senso che si dà alla parola e all'atto educativo, il rapporto tra educazione e istruzione, il ruolo, il dovere, il diritto dello Stato nell'istruzione e nell'educazione dei propri cittadini. Questo problema, insomma, era apparso molte volte nel Trentino, con polemiche infuocate nel primo dopoguerra, con il passaggio all'Italia, con il passaggio quindi dalla scuola elementare che era in mano ai comuni alla scuola che diventa statale. E quindi che ruolo poi poteva avere i genitori? E si pone sempre, appunto, in connessione con l'insegnamento religioso, con il diminuito controllo della Chiesa, eccetera, eccetera. Finisco. Ecco, la lezione di Barbiana è vissuta con grande impegno. Il don milanismo, cioè la didattica, la pedagogia di Don Milani, è visibile persino nei temi che vengono dati. È una scuola contraria alla futilità, al perder tempo, non concede nulla all'infantilismo, al predominio della ricreazione, è contro il consumismo. Ecco, fanno ridere tutti quei critici, ce ne sono legione, insomma, che confondono Don Milani, Rodari, il gioco, no, la scuola facile con questo tipo di scuola. Tutt'altro. Ecco, questa è una scuola difficile. Eppure in questi temi circola una libertà espressiva straordinaria, una libertà linguistica immaginativa che non può non rimandare appunto ad un ambiente scolastico ricco di stimoli, improntato all'antiautoritarismo, alla libertà dei rapporti tra insegnanti, alunni, tra alunni e ragazzi. Ecco, io mi fermerei qui però intanto, Mario, e insomma, do la parola a te. Grazie. A me succede qua sempre quando vado in giro a presentare questo libro di parlare, altri che mi fanno domande, parlare. Col quinto, mi è successo già altre volte, mi succede che sarei io ad ascoltarlo ancora di più, perché lui non solo fa una lettura superficiale, ci conosciamo da una vita, e sulla scuola possiamo dire di avere molti punti in comune, insomma. Forse se non fosse stato per Quinto, lo dico esplicitamente, il libro non sarebbe uscito. Io continuamente dicevo: c'è questo che dici, e lui leggeva e mi spingeva, eccetera. Ecco, io partirei da una cosa, così si capisce anche perché Lucio, quello che ha letto il Quinto all'inizio, di quel ragazzo, io, una delle cose più dolorose è stata quando la casa editrice mi ha imposto di cambiare i nomi, perché e io giro con un libro in cui c'è scritto i nomi veri accanto i nomi, perché non riesco. Ecco, quel ragazzo, che per me è Vincenzo, non è Giuseppe come nel testo, era veramente l'ultimo, aveva già ripetuto qualcosa all'elementare, veniva dalla valle, eccetera. Quella sera, quando davvero, perché si comincia con questa cena attorno al 2000, i ragazzi avevano invitato alcuni insegnanti, c'erano tutti, erano venuti alla cena, e quasi tutti, eccetto due a cui dedico anche il libro perché sono morti, sono venuti nel dicembre dell'anno scorso, quando abbiamo presentato a Mori questo libro, in una serata speciale, insomma, proprio speciale. E questo ragazzo non c'era. Io chiedo, ma Vincenzo ha detto che viene, la Graziella del testo, Michela, che è quella che ha organizzato un po' tutta la serata, dice: no, mi ha garantito che viene, aspettiamo. Quando ci siamo tutti, a un certo punto arriva, era l'ultimo della classe, non per dire, e lui arriva con un cappotto nero, eccetera, così. Entra dentro e arriva: scusate, ma l'aereo ha avuto ritardi. Sentire dire da lui: l'aereo ha avuto ritardi, eccetera. Dopo, veramente, lui dice: scusate, quando fa quell'intervento, perché gli altri stanno tutti parlando di una cosa che avevo portato io. Io avevo portato, come, non come regalo, ma insomma, non li vedevo da anni, avevo fatto la fotocopia dell'ultimo tema in classe. Fra l'altro, fra parentesi, dovrei finire in galera, perché non so, io mi ritrovo tutti i temi a casa, forse allora non era vincolante, ma insomma, io me li sono ritrovati. Allora, ho fotocopiato l'ultimo tema, che diceva: sto per lasciare le medie, puntini. E loro ricostruiscono la loro storia, come si sono trovati, cosa hanno fatto, cosa eccetera. E quindi avevo portato questo. Allora, gli altri stavano parlando, ognuno leggeva un pezzetto con gli altri, cioè. Arriva lui e dice: no, dai, ste monate, comunque, poi dopo va a prendere e parla del libro, come ha detto, però conclude un pezzettino che è saltato, conclude dicendo: però, se ricordo bene, c'era anche un altro ragazzo, ecco qua. Alla fine dice, dopo il mondo, io non sono diventato comunista, né mi interesso del Consiglio Comunale, ma del lavoro, della famiglia, della vita, ne capisco. La scuola l'ho continuata dopo le medie, una scuola professionale, non sono andato al liceo, ma in quel libro ho letto che c'era un altro ragazzo di Barbiana, e qui ritorna il Lucio, che si chiamava Lucio, apre virgolette, che aveva 36 mucche nella stalla e che disse: la scuola sarà sempre meglio della merda. Ecco, lui cita questa frase e chiude con questa, da qui anche il nome Lucio, eccetera, eccetera. E allora, vuol dire, la cosa, lui faceva, andava davvero, vendeva, non era sua la ditta, ma vendeva forni per fare il pane, per fornai, proprio, cioè per forni, non quelli al dettaglio, voglio dire, cioè, e quindi girava con l'aereo, con la cosa. Ecco, allora, da dove partirei? La prima cosa, noi non abbiamo, lo dicevo prima a una persona che mi ha intervistato, noi non abbiamo fatto, come dire, un algoritmo oppure una scaletta precisa. Ecco, c'era Barbiana, i ragazzi dicevano questo, Milano diceva questo, noi facciamo questo. E noi, come diceva Quinto prima, ci mettevamo in gioco coi ragazzi. Però quando mi hanno chiesto, all'interno del Festival Educa che fanno a Rovereto ogni due anni, la manifestazione insieme ad Erardo Affinati, c'ero io e parlavamo dei rispettivi libri, quando mi hanno chiesto: ma cos'è che c'era di Don Milani in questa scuola? Perché col vento di Barbiana? Io ho risposto con una cosa molto semplice, ho detto: io questa cosa l'ho scoperta dopo, la sto scoprendo ancora di più in questi giorni girando con il libro. A Rovereto, a Mori, una ragazza, una delle alunne, erano venute tutte o quasi, insomma, a parte, come vi dicevo prima, quelli che erano morti, c'erano tutti quella serata. Una ragazza, quando è intervenuta, non so se ricordi Quinto, ha detto: io in quelle ore ho capito che anche nella mia classe c'erano gli ultimi, c'erano sempre stati quelli della Val di Gresta che scendevano e si mettevano, erano in fondo alla classe, ma non parlavano mai, perché con gli altri professori, con il professore di religione, eccetera, eravamo noi davanti, quelli che avevano diritto alla parola. Quando il professore ci ha messo, non ero solo io, anche quello di matematica, ci ha messo in gruppo attorno a un tavolo, abbiamo scoperto che c'erano gli ultimi anche nella nostra classe e hanno cominciato a parlare con noi. Quindi questo è io quello che ricordo. Poi un'altra ragazza che mi ha un po' scioccato, non so se ricordi questo episodio, proprio quella sera era talmente forte la passione che mettevamo, non perché eravamo meglio degli altri, perché insomma, qui vedo qualcuno che ho visto l'Orfeo prima, non so se mi sbaglio, e in quel periodo avevamo la sensazione di partecipare a un sogno collettivo, che insieme stavamo costruendo qualcosa di buono per i ragazzi, per la gente, per noi. Questa era la nostra aspirazione, non erano le bombe o l'altra cosa, cioè. E io ho lavorato il mio 68, il mio 69, il mio 70 era nella scuola, a occuparmi di scuola, perché lì era il mio contatto con la realtà. Allora, voglio dire, noi abbiamo via via, c'era un'altra ragazza che è intervenuta quella sera. Io avevo chiesto a quella che ha organizzato la serata, dico: ma non c'è Matilde? Ha detto: sì sì, l'ho cercata, mi ha detto che viene. Bene, Matilde era una ragazza che io non posso dire, perché mia figlia mi proibisce di dire di nuovo il nome autistico, ma insomma, per far capire, dice: lo sto a chiamare così, che cambia. Era una ragazza che non era di famiglia molto povera, figlia di un imprenditore edile, era famiglia, non parlava mai, piuttosto corpulenta, zitta, con me però qualche sorriso, qualcosina, insomma, cominciava a venire fuori. La mamma veniva, mi raccontava che a casa lei era terrorizzata dal padre, quindi una bambina, una ragazza che non parlava mai. Piano piano qualcosa ha cominciato, poco, ma è uscita alle medie. Bene, questa ragazza prende la parola a Mori, quella sera che abbiamo presentato il libro, si alza, dice: sono Matilde. ma nome, cognome, tutto, io cioè, e continuo a dire, quando sono venuti, quando c'era il professore di religione che ci chiamava, ti ricordi, vicino alla Magna, ci guardava se il grembiule era più lungo o più corto, diceva guarda che è troppo corto, va allungato, e noi zitte non aprivamo bocca. Quando sono venuti questi professori, io ricordo, a me è rimasto della media una cosa, ci hanno insegnato cos'è la comunicazione, no, dico, vi ho detto che la ragazza era questa, cos'è la comunicazione, cosa vuol dire prendere la parola, cosa vuol dire parlare. Bene, quando ho concluso io non capivo più niente, l'ho detto anche nell'intervento, nel sentire questa che parlava non riuscivo a frenarla, conclude e questa lavora all'ENEIP di Villazzano, una scuola abbastanza dura, di ragazzi dell'edile, del settore edile, ed è la responsabile della comunicazione e la responsabile dell'integrazione degli stranieri nella scuola. Mi hanno chiesto un commento, dopo non sono riuscito a dire nulla, nulla, perché ero proprio scioccato. E quindi allora dico, se io devo dire cosa c'era di Don Milani, perché il vento di Don Milani, perché l'idea di, l'altra cosa era di dare la parola ai ragazzi, di riconoscere che ci sono gli ultimi, di combattere certo la selezione di classe eccetera, però erano cose che respiravamo e capivamo che a Barbiana, leggendo lettere della professoressa, nel giornalino che ha citato il quinto, c'è anche tutta una parte sulle pluriclassi che avevano fatto loro sulle loro pluriclassi, quindi un'indagine per capire a Mori, a Sano, nelle scuole vicine cosa c'è. Cioè, noi, come dicevo prima, abbiamo fatto tanti errori, non pochi, ne parlavamo con amici e compagni di allora. Noi per esempio in quel periodo andavamo su in Val di Gresta, su alla canonica di sera, per me era freddo da morire perché venivo da zone piuttosto calvine, non solo meridione ma anche a Firenze, insomma, e noi andavamo a rivendicare una delle cretinate che dicevamo, la scuola media su in Val di Gresta. Noi volevamo condannare quei poveri ragazzi che l'unica loro, lo raccontano, la loro vita, dice tutti potevano venire al dopo scuola, per me era la vita, quando scendevo il pomeriggio stavo con gli altri, lo raccontano dopo nei temi, l'hanno detto dopo. Ecco, noi allora rivendicavamo perché ci sembrava di portare, non so, sarebbe stata la morte della valle, cioè non solo dei ragazzi, no? Venire giù eccetera. Quindi voglio dire, molto lo improvvisavamo, però mettendoci a nudo, quindi tante cose. Una delle robe, sono sempre combattuto quando parlo di questo libro, fra dilungarmi negli aneddoti o fare delle analisi. Scusate, siccome qua la prima volta devo ogni tanto andare sugli aneddoti. Ecco, per dire il clima che si respirava allora, appena siamo arrivati, c'era lì una sezione di Franco Cicero, con sé tutti, che organizza Oriente Occidente, cioè, allora era, tu lo conosci senza. Allora era lì a Mori, aveva alcuni che si occupavano di, non so se c'è ancora la tua continua oppure un gruppo di operai studenti, come si chiamavano allora, di intervento sul sociale, eccetera, così. Allora, immediatamente i genitori hanno indetto uno sciopero, ma proprio due giorni dopo che siamo arrivati, io, i due dell'Emilia, due o tre laureati, questo preside, che era un democristiano, era poi stato sindaco di Rovereto all'Accademia degli Agiati, quindi era Danilo Vettori, era un intellettuale, non era mica lui era orgoglioso del fatto che aveva visto il curriculum laureato a Firenze, il massimo dei voti, e aveva chiamato noi, ci presentava con orgoglio alle altre. Beh, i genitori li mettono su uno sciopero, naturalmente, Cissi e gli altri, contro i professori arrivati in difesa degli studenti trentini. Sull'Alto Adige, il giornale d'allora, c'era titolo a tutta pagina, la scuola trentina ai trentini, era lo slogan del PPTT, si chiamava allora il partito, sì, sì. E, però per me, lo dico anche a cosa, PPTT mi sembrava quasi un suono ritmico di qualcosa, non riuscivo, dopo abbiamo capito cos'era. E insomma, fanno questa assemblea e chiamano anche noi, Franco Cissi, l'avevo visto una volta, a te dice, oh venite, c'è l'assemblea, l'abbiamo convocato, eccetera, contro il preside e contro i nuovi arrivati. Bene, questa assemblea i genitori si scatenano contro il preside perché avevano insegnato anche bravi, una credo sia diventata poetessa dopo la Lilia Slomp, mi pare, ecco, quindi, e allora lo attaccavano come un pazzo. Il vicepreside era una persona deliziosa, credo qualcuno di voi lo conosca, ne abbia sentito parlare, non c'è più, si chiamava Umberto Savoia, è l'inventore del MART, è il primo che ha pensato, ha avuto l'idea del MART in Rovereto. Era vicepreside e allora era vicino al preside, noi lì, e gli diceva digli di intervenire, digli per colpa loro, cosa, digli di intervenire, a noi. Io sono salito sul palco. E vi giuro, non ho fatto nessuna analisi, sono salito sul palco e sentendo i genitori ho detto, hanno ragione i genitori, è una follia cambiare gli insegnanti il 10 di gennaio, a metà anno, non mi parlo. Vabbè, insomma, immaginate la reazione, quindi il clima che si arriva dopo, va bene, assemblee quasi tutte le sere, la contrapposizione tra chi la scuola di allora era la scuola chiusa, chi rappresentava la comunità era i due o tre notabili del posto che avevano creato un comitato scuola famiglia per la prima volta, non c'erano organi collegiali, non c'erano decreti delegati, quindi, e noi contrapponevamo, e molto ha giocato la figura di questo preside, Gigi Emiliani, che proveniva dal mondo cattolico, una persona intelligente, moderata, di buon senso, che ne ha approfittato di questa circolare dell'allora ministro Misasi, che diceva, come al solito per far fallire le cose, in tutta Italia chi vuole faccia un doposcuola. L'idea è di farlo per gli sfigati, per quelli che erano già emarginati, quindi fare un doposcuola solo per quelli voleva dire ulteriormente emarginati. Lui ebbe l'intuizione, insieme a tanti di noi, eccetera, di fare un doposcuola chiamando competenti, cioè nel senso anche persone, alcuni senza titolo, ma c'era un sociologo, il Franco Cissi insegnava, aveva il gruppo Cinepresa, ecco, eccetera, e un'altra faceva teatro, già allora contatti con Milano, i ragazzi andavano su a Montalbano, alla montagna, e facevano scene di lotta partigiana, o di cose. Cioè e Mori era trasformato, lo facevano in altri posti, non era, lo dico continuamente questo, io ricordo che anche a Bolzano c'era una scuola, se non sbaglio si chiamava la Pascoli, lo dicevo, non so se era la Pascoli, dove c'era l'Alma Zanfrai, eccetera, dove in qualche modo avevamo, c'era un collegamento più dopo che in quegli anni non proprio. E allora dico, in città si vedevano i ragazzi che anche quelli della scuola del mattino, un ragazzo ha scritto del tema, il nostro professore di scienze oggi ha portato un coniglio vivo in classe, era la rivoluzione, cioè, allora, e lui ne lo fava, cioè, non solo, ma queste classi fecero un'indagine, pensate che intervistarono 106 operai, là vicino c'era Montecatini, che era una fabbrica che ancora c'è, se passate dopo Mori sulla destra vedete questo ruder enorme, e che allora lasciava, perché era malsana, le famose macchie blu sugli operai che lavoravano, un po' come la SLOI. Quindi, ecco, questo insegnante con i ragazzi, anche del mattino, aveva fatto un'indagine, aveva intervistato gli operai di quella fabbrica, quello dopo i ragazzi andavano. Quindi a Mori vedere per strada i ragazzi con un registratore di quelli che si inceppavano continuamente con il nastro, eccetera, quegli altri con la macchina fotografica, cioè non con la cinepresa, gli altri che uscivano con la Savoia per disegnare. Quindi la città era vivacizzata, il paese, non era un paesotto. Si sono offesi perché io ho scritto in un piccolo paese di montagna, è intervenuto uno per dire non è vero che è questo paese, cioè, quella sera adesso. E perché io poi raccontavo un episodio velocissimo, quando sono arrivato venivo da Firenze e ho trovato una pensione che si chiamava Moriveccio. E si chiama Moriveccio anche la trattoria dove abbiamo fatto la cena gestita da un ex alunno che quella sera ha fatto il buffet, cioè. Quindi si chiamava Moriveccio. Allora io vado, arrivo, lascio la valigia e dico vabbè, guardi, allora dopo esco a fare due passi a vedere com'è, cioè. Sono uscito a fare due passi, sono tornato alle 8:30, non c'era più la cena. Dice, no, mi dice, dico com'è? Allora, amori che ridevano quella sera, io ho detto, guardate, vi do la notizia che oggi, prima di questa riunione, sono passato e ho visto il cartello, hanno anticipato di mezz'ora, quindi la cena dalle ore 18 alle ore 20, non più alle 20:30, perché si ride. Quindi volete dire, il clima era così, ma al di là di queste che sono le cose più, lo scontro era sui contenuti. I ragazzi nel giornalino si chiedono perché ce l'hanno tanto con la nostra scuola, più volte. Allora non era tanto gli aspetti folcloristici, il problema vero, il decano aveva ordinato alla proprietaria della casa, mi aveva dato una casa in affitto, una casa che nessuno voleva, la casa rossa di Mori, andando a riva sulla sinistra, a mezza collina, c'è una casa rossa, e io cercavo casa, me l'ha data per 13.000 lire, nessuno la voleva perché dicevano che si è suicidato un prete, e ancora lo sanno questa storia. Bene, il clima, il decano, la storia è un po' complessa, è raccontata lì in maniera ironica, eccetera. Il decano ordina, io vado, rientro dalla scuola e mi trovo la valigia portata giù alla casa dei proprietari che me la riconsegnano. Dico, mi dispiace, non possiamo, non mi dicono perché finché non lo vengo a sapere, cioè il decano aveva dato ordine di non dare la casa a uno che veniva da fuori, e siccome mi avevano visto salutare il Franco Cis, avevano detto a un terrone comunista, quindi non mancava niente. Ecco, cosa dire? Quindi quello che preoccupava di più era proprio questo, attenzione ragazzi, loro non la chiamavano così, dicevano che i ragazzi venivano plagiati, che si parlava di altro, insomma, Quinto ne ha accennato prima, e questo che preoccupava. Eppure voglio dire, la cosiddetta rivoluzione che facevamo, c'è un bell'articolo, però non c'è tempo per leggerlo, che Pier Giorgio Rauzi, che questo è un nome di quelli che conoscete, uno dei 9 preti che avevano chiesto la dispensa al vescovo, non volevano più essere preti, però rimanevano nella comunità ecclesiale e si erano iscritti a sociologia, tutti e 9. Pier Giorgio Rauzi era un po' il leader di questi qua e aveva scritto un bellissimo articolo sul Manifesto, dove diceva, volete sapere qual è la rivoluzione che stanno facendo in questa scuola a livello nazionale allora, no? E diceva, mettono i ragazzi in gruppo, fanno, bastava poco anche per conquistare i ragazzi, bastava un pennarello, sarebbe stata la rivoluzione, o fare un cartellone da mettere al muro, però anche per noi era una cosa nuova, cioè, vuol dire, avevamo apprese io avevo succhiato molto nel libro di 2000 anni, va bene, ma avevo succhiato molto nell'ultimo periodo di università, quando facevamo i gruppi prima delle occupazioni, prima del 68, e quindi alcune cose proprio viste le ripetevi perché sembrava che così funzionasse meglio. Una cosa per esempio facevamo anche al mattino, perché io insegnavo al mattino, era leggevamo, dedicavamo ogni sabato un'ora alla conversazione o due, prendevamo il giornale, lo compravo io naturalmente, non è che c'era soldi della scuola, e avevamo introdotto dopo l'Adige e l'Alto Adige per un periodo, io non me lo ricordavo, lo scrivo un ragazzo in uno dei temi, avevamo introdotto il giorno. E il giorno, voi pensate, proprio nell'anniversario del 12 dicembre, quindi di Piazza Fontana, l'anno dopo e l'anno dopo ancora, e ovviamente dopo aver letto, fatto, commentato, io ho dato anche un tema su Piazza Fontana. Oddio, ci hanno massacrati dopo, però per esempio adesso una cosa che ha molto piacere, mi hanno fatto sapere uno che abita a Mori, però la moglie credo che lavori in comune, insomma, che hanno fatto una mostra sui 50 anni di Piazza Fontana per farti loro, il comune con l'Arce eccetera, e che hanno preso brani dei temi scritti dai ragazzi e l'hanno ingranditi e l'hanno esposti a Mori. L'ho saputo dopo, quindi ho fatto neanche tempo a vederlo questa mostra. Quindi voglio dire, io questo, quello in matematica con le indagini, con gli esperimenti, con le piantine messe, robe che oggi sembrano banali, le piantine messe sulla lavagna, però il grosso, poi c'è un discorso a parte sulla questione del voto e anche sulla possibilità di adottare il libro Lettera alla professoressa. Noi non nel primo anno, ma l'anno dopo, avevamo provato a proporre come testo di narrativa in terza media le lettere della professoressa. Ecco, lì viene descritto molto un collegio docenti infuocato. Il nostro avvocato difensore fu, e abbiamo perso comunque allora, poi l'anno dopo siamo riusciti. Il nostro difensore era appunto Umberto Savoia e il preside era sicuro, non gli andava molto bene questo preside, con noi era andata così. Col Savoia era sicuro, dice, professore, risponda a lei, perché noi c'era alzato uno, aveva espresso le motivazioni per cui questo testo è un testo di narrativa, e lui aveva detto, è un testo politico, non c'è niente, è un testo di narrativa, chiuso anche la discussione. Allora chiede la parola al vicepresidente, e il presidente è convinto che si alza a parlare in sua difesa. Questo qui l'aveva studiato in un modo, Umberto Savoia, una roba commovente, l'aveva studiato, e siccome il preside continuava a dire professore di disegno, lui la prima cosa dice, preside, per cortesia ogni tanto si ricordi, io sono docente di educazione artistica, perché c'era la nuova legge che in qualche modo, e dopo comincia tutta una dissertazione sul valore letterario di Lettera a una professoressa. Cita dei brani, legge, è una cosa, ecco, cioè, voglio dire, io racconto più gli elementi interni, ma poi c'era tutta quella dimensione esterna, ogni cosa veniva decisa insieme a quei genitori che venivano, ed erano tanti, nel doposcuola su poco meno di 200 ragazzi, 150 si sono iscritti al doposcuola, e allora lì poi, vabbè, un capitolo che vi lascio se vi divertite a leggerlo dopo, è la vicenda del corso di educazione sessuale. I ragazzi, non nelle mie ore, proprio nelle ore di un docente, anche questo noto, Diego Leoni, era un docente di ricerca storica, il gruppo di ricerca storica, e avevano discusso insieme a Fabio Straudi, che era uno di quei 9 preti che era diventato sociologo e insegnava lui ricerca sociale nel doposcuola ai gruppi del pomeriggio, avevano espresso al professore l'esigenza di di parlare anche di problemi sessuali. Allora a livello nazionale, non è che c'era solo il libro di Laura Conti della Feltrinelli, si chiamava Educazione Sessuale, un librettino, e per la prima volta sarà dire, parlare di organi sessuali, di cosa c'è. E in Trentino, in quel periodo, ci fu l'episodio della famosa enciclopedia Mondadori, non so se qualcuno di voi ha a memoria. Bene, nella biblioteca comunale di Cembra, marito e moglie, signori Bonvicini, erano i due bibliotecari, e lì i ragazzi avevano questa enciclopedia Mondadori, che era la prima che in modo stilizzato aveva fatto un uomo e una donna con disegnato un accenno di organo sessuale dell'uno e dell'altra. Bene, il giudice, questo si può dire perché ormai è storia, Agnoli, Carlo Agnoli, mandò a processo per istigazione alla violenza, violenza sessuale, insomma, capi di imposizione mostruosi. Fu sequestrata in tutta Italia la rivista, l'enciclopedia della Mondadori, finché poi ci fu un processo delizioso con Canestrini che ha dato il meglio di sé in quelle cose, dove vennero assolti e rimessi, però per un anno la cosa andò avanti. Questa. Quindi il clima, quando si dice a Cavalese tempo fa, ho presentato il libro la mattina ai ragazzi di quinta e pomeriggio agli insegnanti a Predazzo, a spostare a Predazzo. Un insegnante, non giovanissimo, diceva: ma era proprio una scuola così cattiva? Dico: non è questione di scuola cattiva. C'erano regole che erano queste, cioè voglio dire, il nostro entusiasmo non è che fossimo dei rivoluzionari, perché davvero noi, ripeto, la cosa che ho sentito dire dal Quinto per la prima volta, non solo oggi ma anche a Mori, noi mettevamo in gioco noi stessi, cioè non avevamo ricette sicure, insomma. Per cui il libro ripercorre molta di questa vicenda, le incrocia con le vicende autobiografiche e dà questa voce dei ragazzi nei 100 temi dalla prima media alla terza media. Non so se... Io sono stato autorizzato a dire che se qualcuno volesse il libro, siccome non c'è la mediazione della libreria, invece di 24 c'è 20 euro. Se qualcuno lo volesse, me li ha dati la libreria ancora, li porto qua, eccetera. Ecco, se qualcuno, curiosità. Qualcuno ha qualche domanda? Niente, allora vi ringraziamo per la bella serata, la panoramica che ci avete fatto e soprattutto anche questo entusiasmo riscoperto. Certo. E anche un po' per i bibliotecari, diciamo che anche sono un po' sul fronte, no? Ecco, visto che ha fatto questo episodio. Grazie a tutta una. Benissimo, allora grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. È uno di questi scolari di Mori proprio. Sì, era del Giuseppe Paolo Armando. Ah, sì. E devo comprare il libro. No, mi dispiace che non può venire. Ma no, questo era un saluto.